partire da un certo grado di indebolimento provocato dall'età o dalla malattia, ogni piacere colto a spese del sonno, al di fuori delle abitudini, ogni sregolatezza diventa un guaio. Il conversatore continua a parlare per gentilezza, per eccitazione, ma sa che l'ora in cui sarebbe ancora riuscito ad addormentarsi è già passata e sa anche quali rimproveri rivolgerà a se stesso durante l'insonnia e la stanchezza che seguiranno. E intanto anche il momentaneo piacere è finito. Il corpo e la mente sono troppo svuotati d'energia per accogliere con soddisfazione ciò che al vostro interlocutore sembra un divertimento. Assomigliano a un appartamento in un giorno di partenza o di trasloco, quando le visite che riceviamo seduti su un baule con gli occhi fissi alla pendola non sono che un peso, un'ossessione. «Ah, finalmente soli», mi disse Swan. «Dunque, dove ero rimasto? Mi sembra di avervi già detto che il principe aveva chiesto all'abate Poiret se potesse dir messa per Dreyfus». «No», mi rispose l'abate. «Dico mi», si interruppe Swan, «perché è il principe che parla, è chiaro? Ho un'altra messa che sono stato incaricato di celebrare per lui stamattina». «Come? C'è un altro cattolico oltre a me convinto della sua innocenza?» «Evidentemente. Ma la convinzione di quest'altro partigiano deve essere più recente della mia. Eppure, questo partigiano mi faceva già dire delle messe quando voi ancora credevate alla colpevolezza di Dreyfus. Ah, non si tratta dunque di una persona del nostro ambiente. Al contrario. Ma allora fra noi ci sono davvero dei dreyfusisti? Mi state incuriosendo. Se la conoscessi, questa rara avis, mi piacerebbe confidarmi con lei. La conoscete e si chiama Principessa di Grammont. Mentre io temevo d'offendere le opinioni nazionaliste, la fede francese della mia diletta moglie, lei aveva avuto paura di turbare le mie opinioni religiose, i miei sentimenti patriottici, ma per conto suo la pensava come me, sebbene da più tempo di me. E ciò che la cameriera portava di nascosto nella sua camera, ciò che andava a comprarle ogni giorno, era l'aurore. Da quel momento, caro Swan, ho spesso pensato al piacere che vi avrei fatto dicendovi quanto le mie idee fossero in questo campo affini alle vostre. Perdonatemi se non l'ho fatto prima. Se ricordate il silenzio che avevo mantenuto con la principessa, non vi stupirà che pensarla allo stesso modo mi abbia tenuto lontano da voi più che pensarla in modo opposto. Abordare questo argomento era per me una prospettiva estremamente penosa. Più mi convinco che un errore, che addirittura dei crimini siano stati commessi, e più il mio cuore sanguina per l'esercito. Non avrei mai supposto che opinioni simili alle mie potessero ispirarvi lo stesso dolore. Quando ecco l'altro giorno mi vengono a dire che voi avete energicamente deplorato le offese all'esercito e il fatto che i dreyfusisti accettassero d'allearsi agli offensori. Per questo mi sono deciso. Confesso che mi è stato atroce rivelarvi quel che penso di certi ufficiali, fortunatamente poco numerosi, ma è un sollievo per me non dovermi più tenere lontano da voi e soprattutto che voi vi rendiate ben conto che se ho potuto coltivare altri sentimenti è perché non avevo dubbi di sorta circa la fondatezza della sentenza. Non appena ho cominciato ad averne, non potevo più desiderare che una cosa, la riparazione dell'errore. Credetemi, queste parole del principe di Grammont mi hanno profondamente commosso. Se lo conosceste come lo conosco io, se sapeste quanta strada ha dovuto fare per arrivare a questo, provereste ammirazione per lui. E la merita, ve l'assicuro. D'altronde il suo atteggiamento non mi stupisce. Ha una tale dirittura morale. Swan dimenticava di avermi invece detto, quello stesso pomeriggio, che le opinioni sull'affare Dreyfus erano determinate dall'atavismo. L'unica eccezione l'aveva fatta per l'intelligenza, perché grazie ad essa Saint-Loup era riuscito a debellare l'atavismo diventando dreyfusista. Ora Swan aveva appena constatato che s'era trattato ad una vittoria effimera visto che Saint-Leu era passato nel campo avverso. Adesso, dunque, era alla rettitudine del cuore che gli assegnava il ruolo attribuito nel pomeriggio all'intelligenza. Il fatto è che noi scopriamo sempre, a posteriori, che i nostri avversari avevano, per aderire alla tesi di cui sono fautori, una loro ragione, che non ha mai nulla a che vedere con quanto di giusto può esservi in quella tesi, e che per contro, chi la pensa come noi, lo fa perché costrettovi dall'intelligenza, se la sua moralità è troppo dubbia per poter essere addotta, o dall'addirittura morale, se l'intelligenza è insufficiente. Swann, adesso, trovava indistintamente intelligenti tutti quelli che condividevano le sue opinioni. Il suo vecchio amico principe di Gourmand, come il mio compagno Bloch, che invitò a colazione dopo averlo tenuto sino allora a debita distanza. Swann destò un grande interesse in Bloch, dicendogli che il principe di Gourmand era dreyfusista. Bisognerebbe chiedergli di firmare il nostro appello per Picard. Con un nome come il suo farebbe un effetto formidabile. Ma Swann, che alle sue ardenti convinzioni di israelita univa la moderazione diplomatica dell'uomo di mondo, le cui abitudini erano troppo radicate in lui perché potesse così tardivamente disfarsene, si rifiutò d'autorizzare Bloch a sottoporre al principe, sia pure come sua iniziativa personale, una circolare da firmare. «Non può fare una cosa simile. Non si deve pretendere l'impossibile», ripeteva Swann. «Abbiamo un uomo meraviglioso che ha percorso migliaia di leghe per arrivare sino a noi. Può esserci molto utile. Se firmasse il vostro appello, finirebbe semplicemente col compromettersi di fronte ai suoi. Sarebbe stigmatizzato per causa nostra. Forse si pentirebbe delle sue confidenze e non ne farebbe più». Swann andò ben oltre. Non concesse neppure la propria firma. Gli sembrava che il suo nome fosse troppo ebraico per non fare cattiva impressione. E poi, se approvava tutto quanto si riferiva alla revisione, non voleva aver nulla a che fare con la campagna antimilitarista. Portava, cosa mai fatta prima, la decorazione che si era guadagnata come giovanissima recluta nel 70 e aggiunse al suo testamento un codicillo per chiedere che, a modifica delle disposizioni precedenti, venissero resi gli onori militari al suo grado di cavaliere della Legion d'Onore, il che avrebbe radunato attorno alla chiesa di Combray un intero squadrone di quei cavalleggeri sul cui avvenire un tempo spargeva le sue lacrime Françoise, prospettandosi l'eventualità di una guerra. Per farla breve, Swann si rifiutò di sottoscrivere la circolare di Bloch, di modo che, mentre altrove passava per dreyfusista sfegatato, il mio compagno lo trovò tiepido, infetto di nazionalismo e patriottardo. Swann mi lasciò senza stringermi la mano, per non essere costretto a tutta una serie di saluti in quella sala dove contava troppi amici. Mi disse però: «Dovreste venire a trovare la vostra amica Gilbert. Sapeste com'è cresciuta, com'è cambiata, non la riconoscereste, ne sarebbe così felice». Non amavo più Gilbert. Era per me come una morta lungamente pianta. Poi è venuto l'oblio, e se mai risuscitasse, non potrebbe più inserirsi in una vita che non è più fatta per lei. Non avevo più voglia di vederla, e nemmeno quella voglia di dimostrarle come non ci tenessi affatto a vederla che ogni giorno, quando l'amavo, mi ripromettevo di esternarle quando non l'avessi più amata. Così, poiché l'unica impressione che io volessi dare ormai nei confronti di Gilbert era quella d'aver desiderato con tutto il cuore di rivederla ed esserne stato impedito da circostanze indipendenti dalla mia volontà, le quali in effetti si producono almeno con una certa continuità soltanto quando la volontà non le contrasta, ben lungi dall'accogliere con riserva l'invito di Swann, non lo mollai finché non mi ebbe promesso di spiegare dettagliatamente a sua figlia i contrattempi a causa dei quali non m'era stato né mi sarebbe stato possibile andare a farle visita. «Comunque», aggiunsi, «le scriverò appena tornato a casa, ma ditele, vi prego, che sarà una lettera di minacce, perché fra un mese o due mi ritroverò completamente libero e allora avrà di che tremare. Sarò da voi tutti i momenti, come una volta. Prima di separarmi da Swan, feci un accenno alla sua salute. «Ma no, ma non è che vada poi così male», mi rispose. «D'altronde, come vi dicevo, sono abbastanza stanco e pronto ad accettare sin d'ora con rassegnazione tutto quello che può succedere. Solo vi confesso che sarebbe parecchio seccante morire prima dell'epilogo dell'affare Dreyfus. Quelle canaglie hanno più di una freccia al loro arco. Non ho nessun dubbio che alla fine ne usciranno sconfitti, ma è un fatto che sono molto potenti, hanno appoggi dappertutto. Quando sembra che tutto vada per il meglio, si torna in alto mare. Sinceramente, vorrei vivere abbastanza per vedere Dreyfus riabilitato e Picard colonnello». Andatosene Swan, tornai nel salotto grande, dove si trovava la principessa di Garmont, con la quale ignoravo di dover avere un giorno così stretti legami. La sua passione per Charlus non mi fu subito palese. Notai soltanto che il barone, da un certo periodo in poi, e senza aver concepito contro di lei alcuna inimicizia, di quelle che trattandosi di lui non destavano nessuna meraviglia, ma al contrario, continuando a votarle lo stesso affetto, semmai anche di più, appariva scontento e infastidito ogni volta che gli si parlava della principessa. Né includeva più il suo nome nella lista delle persone con le quali desiderava pranzare. È vero che ancor prima avevo sentito un uomo di mondo, noto per la sua cattiveria, sostenere che la principessa era completamente mutata, che era innamorata del signor di Charlus, ma m'era sembrata una maldicenza assurda, me ne ero anzi indignato. Avevo sì notato con stupore che quando raccontavo qualcosa di me e a un certo punto il racconto compariva Charlus, l'attenzione della principessa saliva di colpo a un altro livello, come quella di un malato che ci stia ascoltando distratto e incurante mentre parliamo di noi e riconosca improvvisamente in una parola il nome della malattia di cui soffre, cosa che al tempo stesso lo interessa e lo rallegra. Così, se le dicevo «il signor di Charlus mi raccontava per l'appunto», la principessa riprendeva in pugno le redini allentate della sua attenzione. E una volta, avendo affermato in presenza di lei che Charlus nutriva in quel momento un sentimento abbastanza intenso per una certa persona, vidi, stupefatto, balenare negli occhi della principessa quel raggio peculiare e istantaneo che traccia nelle pupille una sorta di incrinatura e che proviene da un pensiero che il nostro discorso ha involontariamente sommosso nel nostro interlocutore, un pensiero segreto destinato non a tradursi in parole ma a emergere su dalle profondità da noi sconvolte alla superficie momentaneamente alterata dello sguardo. Ma come avessero fatto i miei accenni a turbare la principessa, questo non l'avevo certo intuito. Poco tempo dopo, del resto, lei stessa cominciò a parlarmi del signor di Charlus, e senza troppe perifrasi. Se alludeva alle voci che taluni pettegoli diffondevano sul conto del barone, era solo per liquidarle come infami e assurde invenzioni. Ma contemporaneamente diceva: «Secondo me una donna che si innamorasse di un uomo dell'immenso valore di Palamed dovrebbe avere una visuale sufficientemente elevata e sufficiente devozione per comprenderlo e accettarlo in blocco, così com'è, per rispettare la sua libertà, le sue fantasie, per cercare soltanto di appianargli le difficoltà e di consolarne le pene». Ora, con questi discorsi peraltro così vaghi, la principessa di Gourmand svelava quel che cercava di magnificare, così come faceva in certe occasioni lo stesso Charlus. Non l'ho forse sentito più di una volta dire a qualcuno, ancora incerto se il barone fosse o no calunniato: «Io che ho avuto tanti alti e bassi nella mia vita, che ho conosciuto gente d'ogni specie, dai ladri ai re, e casomai, confesso con una lieve preferenza per i ladri, io che ho inseguito la bellezza in tutte le sue forme, eccetera». E con queste parole, che egli credeva abili, e volendo smentire dicerie di cui magari nessuno sapeva ancora nulla, o facendo alla verità, per gusto, per misura, per scrupolo della verosimiglianza, una concessione che a lui solo sembrava minima, togliere agli uni gli ultimi dubbi su di lui e agli altri, che ancora non ne avevano, insinuare i primi? E, in effetti, non c'è occultamento più pericoloso di quello della colpa nell'animo stesso del colpevole. La costante conoscenza che egli ne possiede gli impedisce di supporre fino a qual punto essa sia generalmente ignorata, con quanta facilità verrebbe accettata una menzogna totale e, per converso, di rendersi conto da quale grado di verità cominci per gli altri, in parole che egli crede innocenti, la confessione. D'altra parte, avrebbe fatto comunque malissimo a sforzarsi di tacere, giacché non c'è vizio che nel gran mondo non trovi appoggi compiacenti, e si è visto mettere a suo quadro la sistemazione d'un castello per far dormire due sorelle l'una accanto all'altra, non appena si è saputo che non si amavano solo da sorelle. Ma a rivelarmi di colpo l'amore della principessa fu un fatto particolare sul quale non insisterò in questa sede, perché si inquadra in tutt'altro racconto di quando Charlot lasciò morire una regina pur di non mancare all'appuntamento col parrucchiere che doveva arricciargli i capelli per un controllore dell'omnibus di fronte al quale era rimasto singolarmente intimidito. Ma per esaurire l'argomento dell'amore della principessa, vediamo quale fu l'inezia che mi aprì gli occhi. Eravamo quel giorno noi due soli in carrozza. Passando davanti a un ufficio postale, disse al cocchiere di fermarsi. Non aveva lacché. Accennò a tirar fuori dal manicotto una lettera e si mosse come per scendere a imbucarla. Tentai di trattenerla. Lei oppose una debole resistenza e già entrambi ci rendevamo conto d'aver commesso, lei, un gesto compromettente, già che sembrava voler proteggere un segreto, io, un gesto indiscreto, nel contrastare tale protezione. Fu lei la prima a riprendersi. Arrossendo di colpo, mi tese la lettera. Io non osai non prenderla, ma mentre la infilavo nella buca, vidi senza volerlo che era indirizzata al signor di Charlot.